半元音和二和元音。 piano, piano, piaga, piaga, lieve, lieve, pieno, pieno, odio, odio, dio, dio, piuma, piuma, fiume, fiume, mutua, mutua, uguale, uguale, duello, duello, duetto, duetto, suino, suino, guida, guida, tuono, tuono, duolo, duolo, mai, mai, lei, lei, poi, poi, paura, paura, Europa, Europa, miei, miei, tuoi, tuoi, suoi, suoi, guai, guai, soave, soave, caos, caos, teatro, teatro, aeronave, aeronave, fiore, fiore, cuoco, cuoco, paniere, paniere, aereo, aereo. 练习 fiero, fiero, fiume, fiume, fiamma, fiamma, lieto, lieto, ieri, ieri, piaga, piaga, piuma, piuma, viola, viola, buono, buono, nuovo, nuovo, uovo, uovo, tuono, duono, fuoco, fuoco, fuori, fuori, vuoto, vuoto, nuora, nuora, paura, paura, trauma, trauma, reuma, reuma, causa, causa, baule, baule, audace, audace, operaio, operaio, maiale, maiale, telaio, telaio, sdraia, sdraia, buio, buio, noia, noia. L'aula è molto ampia. Il fiume è pieno d'acqua. È un uovo buono. Il palio di Siena. 谚语 Proverbi. Del senno di poi son piene le fosse. Buon vino fa buon sangue.